in primo piano. Alle 7 quasi e 35 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme i quotidiani di oggi nella prossima mezz'ora a partire dal Sole 24 Ore. Vado veloce perché il tempo davvero è poco e le notizie sono tante. Dicevo Sole 24 Ore, in apertura a tutta pagina il titolo è Super Bonus 110%, ecco tutti gli sconti. Infatti ci sono gli approfondimenti nelle pagine interne, in particolare a pagina 3 a cura di Marco Mobili su tutto ciò che riguarda il via libera della Commissione Bilancio che assesta l'impianto normativo del super bonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica per la messa in sicurezza degli edifici. E qui appunto come fa normalmente il Sole 24 Ore dettaglia punto punto tutto ciò che a questo punto si sa, le regole finali che vanno dalla questione cappotto termico fino al salto di due classi energetiche, lo sconto per spogliatoi di sport dilettanti, insomma davvero un po' di tutto. Con il Sole 24 Ore oggi vorrei anche segnalare l'uscita del volume Mangia come parli di Davide Oldani, quindi siamo a metà tra Radio 24 e il Sole 24 Ore, perché sono state raccolte in un unico volume che è in edicola da oggi le ricette di un libro di cucina e cultura del cibo, le ricette che Davide Oldani con Pierluigi Pardo ha nel corso delle puntate e degli anni raccontato agli ascoltatori nella trasmissione che probabilmente ben sapete va in onda il sabato alle 11, poi c'è anche la domenica alle 20. Comunque Mangia come parli è in edicola da oggi col Sole 24 Ore, dove c'è anche l'approfondimento super bonus. Dalla prima del Sole 24 Ore ovviamente un tema che ritroveremo su tutti i quotidiani, ovvero il nuovo focolaio a Vicenza di Covid-19 e il governatore Zaia che annuncia misure restrittive. Un'improvvisa fiammata dei contagi nel Vicentino, dove l'indice RT ieri è balzato da 0,43 a 1,63. Il governatore del Veneto Zaia annuncia per lunedì un'ordinanza restrittiva alla luce di assembramenti e comportamenti sconsiderati di troppe persone. Tra le misure anche il ricovero coatto per chi rifiuta le cure, come ha fatto questo imprenditore che nel tempo, nei giorni, ha contagiato decine di persone o comunque è venuto a contatto con decine di persone che ora dovranno rispettare la quarantena. Alcune sono già state riscontrate positive, altri test ovviamente verranno fatti. Volevo segnalare dal Sole 24 Ore, anche nel consueto approfondimento food del sabato, una dettagliata pagina sui fertilizzanti senza chimica nel futuro dell'agricoltura. Ne scrive Alessio Romeo: produttività e biostimolanti di nuova generazione a basso impatto ambientale si stanno diffondendo rapidamente. È un mercato da 2,5 miliardi che in Italia cresce del 10% annuo. Quindi la riduzione che è prospettata in Europa di fitofarmaci prevede ovviamente una crescita di altri strumenti nei quali l'Italia è già all'avanguardia, scrive Romeo, sia nell'uso sostenibile in campo che nella produzione di fertilizzanti speciali e dei cosiddetti biostimolanti, fertilizzanti naturali di nuova generazione che si differenziano da quelli tradizionali, minerali e non solubili, proprio per il minore impatto ambientale. Quindi l'approfondimento anche qui sul Sole 24 Ore. Andiamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera, apertura, contagi in Veneto, ira di Zaia, nuovo focolaio a Vicenza, il governatore dice colpa di un untore, serve il carcere. Poi al centro pagina l'eterna primula rossa che evita una condanna a 30 anni, qui si parla ancora dell'ultima fuga a 78 anni del bandito Mesina. Nella tarda serata di giovedì il verdetto della Cassazione: Graziano Mesina a 78 anni deve tornare in carcere per scontare la condanna a 30 anni, ma quando nella notte i carabinieri si sono presentati alla sua abitazione l'ex primula rossa del Supramonte era irreperibile. Anche questa è una vicenda con tutta la storia di Mesina, viene tratteggiata su molti quotidiani, io vi leggo il Corriere della Sera, ma appunto non è l'unico a proporre oggi una ricostruzione della lunga, diciamo così, carriera del bandito sardo. Nuovo premier, la crisi francese è durata solo 3 ore, sempre dalla prima del Corriere della Sera, ne scrive Stefano Montefiori. La Francia ha un nuovo premier che ha sostituito Philippe, tornerà a fare sindaco a Le Havre per il presidente Emmanuel Macron. Il nuovo governo sarà di lotta. Servono nuovi volti e nuovi talenti. Il presidente aveva da tempo annunciato una nuova fase di politica in vista della corsa per l'Eliseo del 2022. Sul Corriere della Sera poi oggi segnalo anche l'intervista a Valdis Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione Europea che coordina la risposta alla recessione da Covid, che dice al Corriere che questo MES non ha condizioni e che quindi l'Italia farebbe bene a usufruirne, anche perché le regole europee di bilancio dopo la recessione torneranno. Nel Corriere della Sera, dove troverete anche un'intervista al governatore Luca Zaia, del governatore del Veneto, che parla appunto, come abbiamo già detto leggendo la prima, un TSO, il carcere per gli irresponsabili che mettono a rischio la vita degli altri. Dicevo, dalle pagine interne del Corriere della Sera, invece sul Corriere Milano in particolare, vediamo una notizia, diciamo in controtendenza ai dati Istat che riportano un po' tutti i quotidiani oggi. La notizia è che a Milano, almeno nel primo semestre del 2020, le nascite sono aumentate del 6% alla clinica Mangiagalli. Parti in ospedale, la curva si inverte, culle piene in città proprio nella fase dell'emergenza. Un ritorno alle grandi strutture, si legge anche. Ma il dato appunto è che sono aumentate le nascite, mentre poi leggeremo su molti quotidiani che complessivamente in Italia le cose non vanno così. La clinica è da sempre un osservatorio privilegiato sulle tendenze, perlomeno della città, scrive Stefano Landi. Siamo stati i primi a evidenziare il ritorno delle nascite a inizio 2000, come anche quelli che segnalavano il decremento del 2008. Sono parole queste di Basilio Tiso, che è il direttore medico di presidio del Policlinico. Forse era finita lentamente una crisi, dice Tiso, riferendosi a questi ultimi dati che indicano un aumento del 6%, ora però se ne potrebbe aprire un'altra. E questo è il timore, l'idea, almeno l'impressione che hanno un po' tutti. Repubblica addirittura apre su questo tema. Le culle vuote del virus, scrive, c'è un allarme da parte dell'Istat, previste almeno 10.000 nascite in meno. Quindi se a Milano nei 10 mesi scorsi, diciamo, sono stati concepiti più bambini, adesso le cose potrebbero essere completamente diverse, secondo l'Istat, per i prossimi 10 mesi. Le famiglie infatti hanno paura del futuro. Risalgono i contagi, nuovi focolai, dati preoccupanti in Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. Il governatore Zaia dice: ci sono troppi irresponsabili, adesso inasprirò le regole. L'epidemia di Covid-19 si abbatte sui cittadini più fragili e acuisce le diseguaglianze. La paura del futuro fa calare le nascite. Questo è il rapporto Istat e ci sono nuovi focolai in Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna. Sulla prima della Repubblica troviamo anche la questione ben nota nelle ultime settimane dei problemi, dei gravissimi problemi di viabilità attorno a Genova. Autostrade, l'ingorgo ligure imprigiona 3 regioni, scrive Alessandro Cassinis. Si ferma tutto intorno a Genova e da Genova non si può andare né verso Levante né verso Ponente. La città si blocca per ore. È la paralisi perfetta, va avanti così da settimane, con 110 cantieri aperti sulla rete ligure e le gallerie da ispezionare. Ma ieri è stato il venerdì più nero, perché al traffico di camion si è aggiunto il flusso dei vacanzieri. Sempre su Repubblica, caccia a JJ4, ora un nome, l'orsa in fuga, smascherata dal DNA. Poi premio Strega, dopo lo Strega, con Sandro Veronesi, vincitore, che dice: voglio tornare subito a scrivere. Poi uno sguardo anche sul panorama calcistico, il fallimento giallorosso, perché la Roma si è perduta nel suo labirinto, scrive Matteo Pinci. Segnalo la prima di tante interviste ad Andrea Crisanti, che come abbiamo imparato nelle scorse settimane è il microbiologo di Padova e promotore dell'utilizzo esteso dei tamponi in Veneto. La prima di tante interviste, perché ovviamente risalendo l'indice R.T. in Veneto tutti hanno pensato immediatamente a lui. Allora, il titolo di Repubblica è Crisanti, troppe rassicurazioni facili da esperti e politici, ma non è finita. E dice in sostanza, Zaia e i suoi sono preoccupati e arrabbiati, dice Michele Bocci che lo intervista, e lui risponde: fanno bene, sta succedendo una cosa che era ampiamente prevedibile. Io lo avevo detto il 7 aprile che saremmo andati incontro a un periodo con diversi focolai. L'importante è capire perché queste cose accadono. L'Italia non è una bolla protetta, l'altro giorno nel mondo ci sono stati più di 200.000 casi, in 24 ore è impossibile pensare che ne siamo fuori. Sulle discussioni con il presidente Zaia, dice si voleva attribuire i meriti della sorveglianza attiva, cioè del largo uso di tamponi che ho suggerito io, comunque non stiamo litigando, non è successo niente di importante. Vi leggo il prossimo titolo prima di dare spazio alla viabilità, che viene dalla Stampa. Dunque, di qua sera troppe rassicurazioni facili da esperti e politici. Di là, sulla Stampa, dove c'è un'altra intervista ad Andrea Crisanti, il titolo è «Torna il virus e gli errori di Zaia. Il virologo Crisanti accusa il governatore». E quindi, insomma, vedete come si presentano le cose in maniera diversa, e dice Crisanti: Zaia non se la prenda con i cittadini, sono i suoi consiglieri a sbagliare, il virologo del modello di Bo Euganeo, se si dice che il Covid è sparito si abbassa l'attenzione. Però poi dopo nell'intervista leggiamo che comunque la richiesta è ce l'ha col governatore, lo intervista Francesco Rigatelli e lui risponde no, l'ho aiutato e abbiamo lavorato insieme, ce l'ho con le manipolazioni della realtà. Diamo lo spazio alla viabilità e proseguiamo tra pochissimo. In primo piano. E proseguiamo con, eravamo alla Stampa, parlavamo di Andrea Crisanti e del, come sapete, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, l'inventore, diciamo così, del modello di Bo Euganeo che ha aiutato il Veneto a contenere il virus. Dicevo, ci sono molte interviste a lui oggi, un'altra viene proposta da Il Giornale. Il Giornale intervista intervista Crisanti, Francesca Angeli, e il titolo è in questo caso Zaia cambi i suoi consiglieri, sciocchezza e il virus attenuato. Il contenuto delle interviste è sempre lo stesso, quello che diciamo cambia è molto il taglio che viene dato al titolo, perché anche qui Crisanti dice cosa sta accadendo in Veneto. Beh, in aprile avevo prefigurato l'andamento dell'epidemia, un percorso lungo costellato inevitabilmente da piccoli focolai che vanno subito circoscritti ed isolati, ed infatti è quello che sta accadendo. Si affrontano seguendo l'unico modello che ha dimostrato di funzionare, quando parliamo di piccoli focolai, quello di Bo Euganeo, dove abbiamo sottoposto tutti a tamponi, isolato chi andava isolato, tracciato tutti i contatti. Il contenimento del virus con il caldo, perché non riusciamo a debellarlo però? Non è inaspettato, risponde lui, anche nel caso dell'influenza stagionale persistono casi pure durante la bella stagione. Certo, dovremmo sfruttare questo periodo per riuscire a far scendere i casi a zero. L'importante è contenere i focolai, non mi sento davvero di fare previsioni su quello che potrebbe accadere ad ottobre e novembre, che è forse la cosa più sensata da dire. A questo punto abbiamo imparato a vivere un pochino alla giornata e guardare i numeri sul lungo periodo. Dalla prima del Giornale, ancora, visto che siamo qui, l'apertura è Berlusconi, appello ai giudici, una mossa sorpresa, il Cavaliere dice i magistrati onesti lottino per una commissione d'inchiesta sulla mia condanna, nuovi dettagli sulla sentenza spifferata dalle toghe, Conte rinvia tutto ma non il pagamento delle tasse. Questo è un po' il sunto della giornata di ieri per il titolo di apertura del Giornale. E andiamo a questo punto al Quotidiano Nazionale, rottamazione auto, super incentivo, quindi una scelta decisamente diversa dalle altre che abbiamo visto finora, decreto rilancio, 3.500 euro a chi dismette mezzi con più di 10 anni e compra Euro 6, fino a 10.000 per l'elettrico. Scoppia il caso infrastrutture, nuova giornata di caos sulle autostrade liguri, i colossi dei container lasciano il porto di Genova. Quindi dedicata alla mobilità questa apertura del quotidiano nazionale. Al centro pagina campeggia il governatore del Veneto Zaia con la mascherina che sappiamo porta sempre, quella con l'emblema, lo stemma della regione Veneto. Virus, la guerra di Zaia, il Covid muta, più contagi, meno morti, il Veneto richiude, l'Istat nel 2015 epidemia analoga ma senza allarmismi. Leggiamo un po', vi leggo giusto qualche stralcio di questo articolo che riprende un passaggio dei dati del report dell'Istat. 5 anni fa l'influenza fece una strage, migliaia di vittime, ma l'Italia restò aperta. Anche nel 2015 a perdere la vita furono soprattutto anziani, in quel caso nell'indifferenza generale. L'importanza della vaccinazione contro le infezioni di stagione, la denuncia dei geriatri, profilassi ancora troppo poco diffusa. Consiglierei una lettura intera perché, visto così, uno rimane un pochino, diciamo, preso in contropiede. Le situazioni sono diverse, sicuramente comunque questa che viviamo non è l'unica epidemia che è stata vissuta negli ultimi decenni. L'estensione, la rapidità, la gravità più diffusa, ecco, fanno un po' la differenza. Andiamo al manifesto. Il manifesto apre con il titolo sulla fotonotizia SOS Viking, la situazione a bordo è peggiorata, non possiamo più garantire la sicurezza dei migranti e dell'equipaggio. Viking dichiara lo stato di emergenza e chiede di sbarcare subito i 180 profughi salvati nel Mediterraneo, ma l'Italia e l'Europa restano in silenzio. E quindi si sposta l'attenzione su, appunto, questa imbarcazione e i migranti che sta trasportando, mentre poi si dettaglia sul rapporto dell'Istat, l'Italia post-Covid scioccata ma coesa, il rapporto annuale disegna un paese sotto shock, scrive il manifesto, che nella pandemia si è ritrovato unito, la sanità ha retto nonostante i tagli decennali, l'offerta di posti letto ospedalieri dal 95 al 2018 si è quasi dimezzata, pari a 6,3 per 1000 abitanti, allarme per la scuola e il lavoro, la didattica a distanza è un dramma per il sud dove il divario con il nord è aumentato, mentre l'ascensore sociale funziona solo verso il basso. E quindi il manifesto evidenzia alcuni, e questi in particolare, passaggi del rapporto Istat. La Verità titola invece sul Premier, come sempre lo chiama Giuseppi si è infilato in trappola, scrive, MES, nomine e decreti, Conti ha bistrattato per mesi il Parlamento, ma ora siamo alla resa dei conti. Il 14 e 15 luglio raffica di passaggi dove i numeri risicati promettono sorprese. Slittare tutto a settembre vuol dire dover sciogliere gli stessi nodi in campagna elettorale. Andiamo ad Avvenire, molto spazio per il rapporto Istat, è la Post Italia, titola in apertura, la pandemia ha reso il paese più diseguale, fragile, restano solidarietà e fede, nuovi focolai in Veneto, Zaia annuncia la linea dura con ricoveri obbligatori. Ma anche qui c'è la Ocean Viking in primo piano, come sul manifesto, stato di emergenza, la Ocean Viking dimenticata. La richiesta di sbarco ignorata, tentati suicidi a bordo. 6 tentativi di suicidio, nessuna risposta alla domanda di evacuazione medica, almeno per le 44 persone più vulnerabili. Silenzio dopo 7 richieste di sbarco, lo stato di emergenza dichiarato per la prima volta nella sua storia dalla nave di SOS Mediterranee è il segno che l'accordo di ricollocamento europeo per i migranti è ancora una chimera. Vorrei almeno darvi conto dell'apertura del Fatto Quotidiano. B al giudice, voglio la garanzia, deve parlarne a Napolitano, le trascrizioni integrali dei suoi colloqui con Franco e Ferri. Questa è un'esclusiva che ha il Fatto Quotidiano e il titolo di apertura di Libero, in conclusione, poche aziende licenziano, poveri più poveri, ricchi più ricchi, radiografia Istat dell'Italia. L'88% delle imprese tiene botta, meno le piccole, aumentano le disuguaglianze sociali, in crisi anche chi lavora in nero, più morti di corona fra i meno istruiti e calano i figli. la crisi anche tra chi lavora in nero è abbastanza comprensibile, però noi ci dobbiamo fermare perché adesso è tempo di dare spazio a GR24. Vi ho dato conto dell'apertura di Libero. In conclusione, da Laura Bettini, appuntamento alle 8:30 con Si può fare.